In collegamento telefonico con Nicola Bianco, consulente della direzione artistica della 25esima edizione dei Solisti del Teatro ai Giardini della Filarmonica Romana dal 19 luglio al 7 settembre. Nicola, ben trovato. Ciao Federico, ben trovati a tutti. Come state quest'anno? Bene, tutto bene. Meno male, meno male. Sì, ti racconto, grazie intanto Federico per questa intervista. Siamo alla 25esima edizione, Le nozze d'argento dei solisti del teatro, nato, lo ricordo, nel 1994, direzione artistica di Carmen Pignataro. Iniziamo domani sera, il 19 luglio. E andiamo avanti fino al 7 settembre per un totale di 36 spettacoli in cartellone. Io Federico mi permetto soltanto di fare una premessa velocissima. Noi ringraziamo tutte le compagnie e tutti gli artisti che quest'anno hanno aderito al nostro cartellone e che hanno deciso di venire a partecipare a questa 25esima edizione, perché gli spettacoli saranno tutti quanti ad incasso, non ci sono cachet. Tu lo sai che noi ormai già dall'anno scorso siamo senza finanziamenti pubblici, per cui nuovamente questa edizione è quasi veramente una missione senza soldi, e per cui grazie all'aiuto degli artisti, all'aiuto anche degli allestitori e di One Name in questo caso siamo riusciti ad aprire anche quest'anno. Per cui ci siamo con 36 spettacoli da domani sera. Ti faccio una rapida carrellata. Tu lo sai, i solisti del teatro hanno questa caratteristica di cambiare spettacolo ogni sera. Abbiamo i grandi nomi come Roberto Erlisca, Pino Strabbiodi, Evelina Megnaggi, il nuovo spettacolo di Luciano Melchionna, Viola Graziosi, e partiamo domani sera con Pierino il Lupo, con Antonello Fassari e Lorenzo Lavia, testo famosissimo, e un'orchestra dal vivo. Sai che i solisti del teatro si contraddistinguono anche per la contaminazione dei generi, per cui abbiamo spettacoli di danza, spettacoli di teatro musica e spettacoli di teatro di prosa. Una particolare attenzione allo spettacolo che ospitiamo lunedì 23 luglio, che è di produzione Alt Academy ed è uno spettacolo sul razzismo, sui migranti e sull'integrazione, ed è con il patrocinio di ben cinque ambasciate, tra cui l'ambasciata dell'Iran, dell'Afghanistan, la Moldavia, Costa d'Avorio e l'Istituto Nazione Rom. Lo spettacolo si chiama Come se foste a casa vostra ed è per il testo e la regia di Michele Cosentini. Uno spettacolo sotto forma di commedia con quattro accenti drammatici su questo tema attualissimo per noi in questo momento storico. Sì, volevo chiederti, Nicola, i giorni, ci sono dei giorni fissi settimanali per gli spettacoli? Guarda, noi di norma siamo aperti dal lunedì al venerdì con gli spettacoli, ma ci sono anche alcuni spettacoli di sabato. Per esempio a settembre siamo 7 giorni su 7. Quindi io per questo consiglio magari di visitare il sito, che è www.teatro91annumero.com, e lì c'è tutto quanto il nostro programma. Di norma soltanto la domenica ci fermiamo e poi facciamo una pausa per quanto riguarda gli spettacoli dal 10 al 20 di agosto. Ma lo sai che in realtà lo spazio resta aperto, perché abbiamo uno spazio di ristoro, quest'anno si chiama La Fartoria, che invece sarà aperto per l'intero periodo 7 giorni su 7, dove si può venire a bere qualcosa o a mangiare qualcosa praticamente tutte le sere. Ed è insomma un posto incantevole, sempre con il solito sistema dei divanetti e dei mobili vintage all'interno dei giardini della Filarmonica, che resta comunque uno dei posti più belli dell'estate romana, ancora vivi. Senti, comunque ogni spettacolo data unica. Ogni spettacolo data unica, sì, noi abbiamo questa caratteristica, devo dire, davvero molto pesante, però ci piace dare possibilità a tantissime compagnie, a tantissimi artisti di potersi esibire su questo palcoscenico che solitamente lancia le anteprime nazionali. Sarà un'anteprima allo spettacolo del 23 luglio, è un'anteprima allo spettacolo di Erlisca, è un'anteprima allo spettacolo di Pino Strabbioli, anche quello di Evelina Megnaggi. Quindi insomma siamo un palcoscenico di lancio per tanti nuovi prodotti artistici che vengono creati e vogliamo restarlo, insomma. Sì, senti, per la scelta degli spettacoli, come vi siete mossi? Diciamo che il filo conduttore è un un po' lo stesso ormai da anni. Noi cerchiamo delle novità, delle sperimentazioni, ma compagnie di giovani, magari di talento, che vogliono proporsi al territorio. Quindi le scelte vanno sinceramente sulla base di quello che è il nostro principio, che è quello di dare spazio a chi questo lavoro ha scelto davvero di volerlo fare, quindi ai professionisti giovani o di nome e di carriera che ci propongono delle cose stimolanti, magari su temi anche sociali, su temi di attualità, così come magari riportare in scena dei vecchi classici, perché non ci dobbiamo dimenticare che qui la storia e la letteratura non la deve dimenticare nessuno, e quindi cerchiamo di mantenere, come dire, un braccio nella tradizione e un braccio verso il futuro e quindi anche verso nuove sperimentazioni. Da questo punto di vista abbiamo un'apertura veramente a 360 gradi, che basta anche per la musica, quindi le nuove proposte musicali. Questo sabato ci sarà un concerto con tutte le sigle più belle dei film, che viene ospitato all'interno chiaramente della rassegna, ed è un concerto vero e proprio, quindi davvero non mettiamo limiti all'arte. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente, il sito che è www.teatro91annumero.com, i solisti del teatro per quanto riguarda Facebook e i solisti del teatro per quanto riguarda Instagram. Sul sito e sulla pagina Facebook avete anche i riferimenti telefonici eventualmente per le prenotazioni. Lo sai, noi abbiamo anche dei prezzi accessibili a tutti. Il biglietto intero costa solo 15 euro, ma poi partono i ridotti a 13 e a 10 per i gruppi da almeno 6 persone, e abbiamo anche un ridotto studenti a 5 euro per portare i più giovani alle nostre serate, per cui insomma davvero meno del cinema. Ok. 25esima edizione dei Solisti del Teatro a Roma, ai Giardini della Filarmonica Romana, dal 19 luglio al 7 settembre. Un saluto e un ringraziamento a Nicola Bianco, consulente della direzione artistica. Nicola, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede lì. Grazie Federico, come sempre, e buona estate a tutti. Ciao. Ciao, a presto.